Il cacciatore di libri. Un'estate fa, versione dei Delta V, cover di una canzone di Franco Califano, ma un'estate fa è anche il titolo del nuovo romanzo di Camilla Baresani, pubblicato da Bompiani. Un romanzo gustosissimo. Racconta la storia d'amore di una donna, Erika, 45 anni, sposata, giornalista che vive a Milano. Storia d'amore, dicevamo, con un produttore televisivo romano, Arnaldo, anche lui impegnato. Il tutto sullo sfondo di una borghesia colta, fra parti letterarie, inaugurazione di mostre, e personaggi che hanno tanta voglia di apparire. Ma perché Camilla Baresani ha deciso di raccontare proprio questa storia? Ecco che cosa ci ha risposto. Perché mi piace raccontare gli ambienti. Nei miei precedenti romanzi ho raccontato altri ambienti, adesso ero arrivata al momento di raccontare il mondo in cui negli ultimi anni mi è capitato di vivere, che è un mondo cultural giornalistico che vive per esserci, per sentire di essere vivo, deve anche essere nelle fotografie, agli eventi, alle inaugurazioni, alle feste, non per cattiveria, cioè questo fatto, ma solo perché chi soprattutto fa un lavoro che ha a che vedere con la cultura deve apparire in qualche modo. Quindi ho deciso di raccontare nell'arco di un'estate, che è poi l'estate del 2008, un ambiente molto itinerante, di gente che poi alla fine è sempre la stessa perché si rincontrano tutti nei vari luoghi dove girano nel corso di quell'estate, che sono un po' i soliti posti del, non so, c'è la mostra del cinema di Venezia, ci sono gli incontri di Cortina, ci sono località di spiaggia, di mare, Capalbio, Sabaudia, dove vanno tutti, e sono sempre gli stessi, come se vivessero in un paese molto piccolo e invece non fanno altro che girare e spostarsi. E ci sono per esempio le mostre, le inaugurazioni, i party romani, ma anche forse milanesi, insomma c'è tutto quell'ambiente lì. È stato divertente leggere il libro, anche perché facendo proprio questo mestiere il gioco scatta subito, provo a indovinare chi è quel determinato personaggio, chi è quell'altro. C'è una scena in cui si nomina un ex presidente della Repubblica, diventato molto più famoso da ex che da presidente, mi ha fatto pensare a Cossiga. Insomma, quanto si è ispirata alla realtà per descrivere questi personaggi? Allora, diciamo che invento dal vero è una modalità che hanno molti scrittori, naturalmente con le dovute proporzioni di fama e di qualità. Per esempio Balzac ci ha raccontato Parigi molto meglio di tanti libri di storia, perché ha messo nomi, cognomi, indirizzi del sarto, negozi dove si vendevano i bastoni da passeggio. Cioè i suoi romanzi, che hanno molte psicologie complesse, hanno delle trame, hanno però una descrizione quasi giornalistica della realtà storica di quel momento, delle persone che c'erano in giro, anche dei pettegolezzi che si facevano sulle mogli, i mariti e le relazioni tra i vari personaggi. Ecco, io ho usato, diciamo, la stessa tecnica, ho raccontato, naturalmente inventando dal vero, cioè, e poi quando uno fa una narrazione non può più, non è più giornalismo, cioè è assolutamente un'altra cosa, è scrittura anzitutto, cioè stile della scrittura, punto di vista che adotta. Però ho usato tante persone o episodi veri che ho visto e ho vissuto come se fossero delle dimostrazioni di realtà. Non so, quando uno cita un mobile IKEA, immediatamente il lettore ha idea di che tipo di mobile è. Se uno cita un personaggio o un'inaugurazione o una festa o gli incontri di Cortina, anche il lettore immagina, è facilitato nell'immaginare l'ambiente che si descrive. Ma nel descrivere questa società, appunto questo mondo editoriale un po' radical chic, insomma è comunque un ambiente borghese e colto, c'è anche un po' uno sguardo ironico. Beh sì, moltissimo, è una cifra ovviamente della mia, cioè ovviamente no, per chi non lo sa, diciamo è una cifra della mia scrittura, l'ironia e l'autoironia. Poi questo mondo che sembra molto scintillante, io lo racconto, è un romanzo anche un po' polifonico, sono varie le voci che compaiono nel romanzo e una di queste è quella di un cosiddetto, diciamo, il nostro mondo è pieno di persone che vivono senza avere un soldo, però diciamo sulla ricchezza degli altri, invitati, partecipanti, cioè ci sono una serie di parassiti o imbucati che per me sono sempre dei personaggi simpaticissimi, mi piacciono narrativamente, mi piacciono anche nella vita. e per cui partecipano al banchetto altrui senza essere nulla, però sono come presi nell'onda, nel vento di tutti gli altri e ci sono sempre. Adesso vabbè, con la crisi sono anche diminuiti, però è una professione quasi quella dell'imbucato e del... E quindi quello che deve apparire sulle foto dei giornali. Venendo alla struttura del romanzo, è una struttura particolare, viene raccontato in prima persona dalla protagonista Erika, poi da un coprotagonista Gerardo e poi ancora in terza persona. Come mai questa struttura così fantasiosa? Beh, intanto un romanzo è, a differenza di un racconto, è un'architettura, è come una casa, un edificio, un palazzo, è una costruzione narrativa, c'è una trama abbastanza anche pensata, per cui chi lo leggerà, in realtà il racconto, che poi è il racconto di una storia d'amore che si svolge nel corso di quell'estate tra una giornalista della pagina degli spettacoli di un quotidiano milanese e un produttore di documentari romano. E in questa storia d'amore molto appassionante, con dei colpi di scena finali, il racconto viene fatto dalla voce, dal narrante, nell'arco di 12 ore. C'è uno stratagemma narrativo, c'è un finale chiuso. Insomma, a me piace la costruzione del romanzo, il fatto che sia un edificio e non solo un'autostrada, cioè sia una cosa che deve stare in piedi, che abbia un'architettura pensata con i piani, i livelli, le stanze, l'ascensore che va su e va giù. Ecco. Insomma, il bello è anche poi vedere lo stesso episodio magari visto dagli occhi di lei e dall'occhio di lui. Esatto, infatti, perché i due io narranti sono questa protagonista che si chiama Erika, la giornalista, e il suo amico parassita partecipa di quell'ambiente, e sono amici d'infanzia. Sono due ex e raccontano le vicende, i fatti di quell'estate, ognuno dalla sua visuale. Poi c'è un terzo protagonista che è il mega dirigente editoriale del gruppo in cui lavora la protagonista, che nell'arco del libro spiega anche la sua opinione sui fatti di quell'estate, ovviamente con una visuale molto diversa e molto più scaltra dei due, diciamo, per quanto adulti, abbastanza pivelli. E in questo caso naturalmente non si è ispirata alla realtà per descrivere questo direttore editoriale. Ma ho combinato dei caratteri, dei tratti che ho visto in persone che ho conosciuto. E poi in realtà, come molti scrittori, io sono autobiografica su tutti i personaggi, cioè mi spalmo, diciamo, su tutti i personaggi, per cui la mia voce di Camilla Baresani è, in realtà la troviamo sia, come uno può immaginare, nella protagonista Erika. Però mi sono anche molto identificata nell'amico maschio parassita, sarà che ho un fratello, per cui un fratello quasi coetaneo, quindi sono abituata al punto di vista dei maschi, perché quando si è due fratelli si fanno sempre delle chiacchiere molto sincere tra fratelli. E poi mi sono identificata tantissimo in questo direttore editoriale a cui ho imprestato delle caltrezze mie, sempre arrivano sempre in ritardo, troppo tardi, ma gliele ho, diciamo, date in prestito, e ne è venuto fuori un personaggio abbastanza cinico, abbastanza così, che non, disilluso. E questa era Camilla Baresani, ora in libreria con Un'estate fa, pubblicato da Bompiani. Per la rubrica Consigli d'autore, la parola oggi va a Federico Moccia. Il suo ultimo libro, Scusa ma ti voglio sposare, tra l'altro è diventato un film da ieri nelle sale cinematografiche. Sentiamo allora il consiglio d'autore di Federico Moccia. La strada di Cormac McCarthy, perché è un romanzo molto forte, è un rapporto tra padre e figlio, e in un momento difficile di un mondo che si sta in qualche modo sgretolando, e quindi mi è piaciuto vedere come, attraverso un viaggio nella ricerca di una salvezza, semplicemente dal punto di vista di trovare del cibo, la sopravvivenza, quindi padre e figlio parlano e si danno spunti su quelli che sono i valori fondamentali della nostra vita. Federico Moccia ha dunque consigliato La strada di Cormac McCarthy, pubblicato in Italia da Einaudi. Prima di chiudere vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri sul sito www.radio24.it e sul nostro sito trovate anche il podcast della trasmissione. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.